Ciao ragazze! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, non è... Said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati, ben ritrovato qui di nuovo sulle frequenze di Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Io sono Addu, come sempre, qui su Nervature, lunedì alle 19 e con mio grande piacere vi presento, o meglio faccio presentare, forse i miei ospiti di questa sera. Ciao ciao, potete salutare ai microfoni. Ciao. Ciao. Ciao cari. Ciao ciao. Allora, sono molto contenta infatti in questa puntata perché, sapete, sono sempre contenta quando ho ospiti in regia e anche perché queste grandi eccellenze dello studio e della conoscenza mi aiuteranno a esporre qui un tema che è abbastanza grossino, per non dire immenso. Ciao. E quindi, esatto, quasi quasi. Quindi è un tema, però mi preme ricordarlo, che non ho scelto io in tutta autonomia, nel senso che sono stata suggestionata da delle ascoltatrici che ormai tantissime, direi, settimane fa mi avevano scritto mandandomi un articolo nel quale parlavano di, attenzione, intelligenza delle piante. E quindi eccoci qua a parlare oggi dell'intelligenza. Preciso però non solo delle piante, ma vedremo poi di cosa, ecco, con calma, lo scopriremo insieme. Speriamo almeno la nostra. Esatto. Ma perché hai scelto noi per parlare di questo argomento? Perché, sai, bisogna sempre scegliere un po' tra le basse fasce della popolazione, quelle proprio più grandi in intelletto. E è giusto. È andata così, niente. Siamo perfetti, secondo me. Sì. A parte scherzi, se volete potete dire il vostro nome o uno qualsiasi altro a vostra scelta. Ciao a tutti, io sono Lorenzo Giambagli e sono un ricercatore all'Università Libera di Berlino, che è chiamata anche Freie Universität. E sono lì da pochissimi mesi in realtà, quindi inutile che faccia tanto il ganzino. E ho studiato a Firenze, ho fatto il dottorato tra Firenze e Namur, una piccola cittadina nel sud del Belgio. E il mio dottorato e in generale tutta il mio iter di ricerca sono tutti centrati sull'interpretazione e l'analisi di in quelle che oggi vengono volgarmente chiamate intelligenze artificiali. Poi, volendo andare un po' più sul dettaglio, in quelle che si chiamano reti neurali, che magari se abbiamo occasione se ne parlerà anche un po', per insomma... Ecco, sapevo che volevi fare spam. Qua. Oh, l'ho detto! Ho detto la N-word, ecco. Neural network. Quindi, diciamo, mi sono occupato di questo aspetto un po' dal punto di vista matematico, se vogliamo. Ho anche fatto qualche applicazione, insomma, quindi... È un argomento che però mi ha sempre fogato un botto, credo dal liceo probabilmente, avevo iniziato già a guardare queste cose, quindi sono contento di parlare qui con voi. Benissimo, anche noi siamo molto contenti di ascoltarti. E invece l'altra voce? L'altra voce si chiama Elisa De Meo e io faccio il dottorato all'ultimo anno, sono entrata quest'anno nell'ultimo anno, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e... In realtà, quindi non sono mai andata fuori dall'Italia durante i miei studi e faccio il dottorato in biologia molecolare delle piante, quindi sono una biologa vegetale. Adesso inizierete quindi a capire perché sono qui stasera. E, nel mio progetto di dottorato studio sostanzialmente come le piante resistono agli stress ambientali e in particolare come si scambiano determinate molecole, microRNA, che consentono loro di comunicare e di adattarsi meglio all'ambiente. E, niente, questo è quanto. Ok, perfetto. Quindi le nostre ascoltatrici penso abbiano ben compreso le grandi competenze che abbiamo messo in campo oggi. Sì. No, davvero, grazie. A parte scherzi, grazie tanto. E, prima di entrare però nel focus, direi, di questa puntata, di solito si inizia con un bel po' di rilassamento e uno stacchettino musicale, ma prima ancora di questo devo dire i contatti della radio, quindi sappiamo e sapete che siamo su Radio Wombat, ci trovate dal sito radiowombat.net, da dove trovate tutte i podcast, tutte le puntate, le varie trasmissioni. Ci potete ascoltare sulle onde medie 1359 nell'area fiorentina e potete anche scriverci in diretta, anche se noi oggi siamo, in realtà abbiamo registrato, quindi non ci state sentendo in diretta, ma voi scrivete, perciò noi potremo leggere i vostri commenti nei giorni seguenti alla nostra registrazione e chissà, magari anche rispondervi la settimana dopo. Quindi al pad ci accedete dal link diretta@wombat.vado.li, è semplicemente un foglio di testo condiviso, potete scrivere e tutte vedranno quello che avete scritto. Allora, direi di iniziare subito appunto con uno stacco musicale, come dicevo, e poi ci sentiamo, anzi fra pochissimo, per questo grande argomentone. Buon ascolto. Thank you. E quindi questo brano molto bello e piaceva in realtà lo sfumo, e ci continuiamo a parlare un po' sopra visto che era molto lungo, ma sì, molto piacevole devo dire. E allora riprendiamo un po' l'argomentone che già abbiamo presentato, ovvero l'intelligenza. Come ho detto, le mie ascoltatrici mi avevano suggestionato con l'intelligenza delle piante, ma io direi di fare un passo indietro magari, o più passi indietro, per capire intanto che cos'è questa intelligenza. E quindi farei un'introduzione, una chiacchierata al riguardo, poi magari andremo invece a concentrarsi di più sull'aspetto vegetale, se si vuole, facendo un accenno da quell'animale, se on passant, diciamo, se arriva. E poi invece, come già avete potuto probabilmente intuire sentendo la presentazione dei nostri ospiti, anche riguardo all'intelligenza artificiale, soprattutto perché la nostra domanda che diciamo condurrà un po' la puntata odierna è: che cos'è l'intelligenza? Quindi quando è che si può dire ah sì, questo è intelligente, ah no, questo non lo è, a te sì, a te no, eccetera eccetera. Quindi anche un po', diciamo, dal punto di vista della terminologia, ma è giusto forse usare questa parola? Chissà. Dunque, allora, iniziamo quindi con una prima parte. Io, scusate, ascoltatrici, ma questa, ecco, la mia postazione non era ben sistemata. Dunque, come dicevo, cerchiamo un po' di capire che cosa si intende un'intelligenza. Intanto, che cosa si intende di solito con intelligenza. E quindi, semplicemente, molto banalmente, andando a vedere dai dizionari, si vede l'intelligenza descritta come complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all'uomo di pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare, e lo rendono insieme capace di adattarsi a situazioni nuove e di modificare la situazione stessa quando questa presenta ostacoli. Sicuramente alcune di queste cose ci sono molto familiari, ma io vorrei mettere un po' l'accento su una cosa in particolare, ovvero proprio l'inizio, quindi complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all'uomo, eccetera, eccetera. Allora, già qui sì, direi che è particolare, perché comunque si va a restringere incredibilmente il campo, già subito in partenza proprio, e quindi si dice che sono... L'intelligenza appartiene all'uomo, ovviamente inteso come umano, sia mai si dica umano al posto di uomo, vabbè, peccato. Comunque, quindi ci si riferisce intanto all'umano e quindi anche alle facoltà psichiche e mentali. Quindi, anche se non è propriamente esplicitato, però dall'idea che ci stiamo riferendo al cervello. Quindi serve essere umani per essere intelligenti e serve avere un cervello per essere intelligenti, per avere intelligenza. Questo è un po' un aspetto che tireremo fuori più volte durante la puntata, perché chissà se forse è il modo giusto di vedere le cose. Nonostante ciò, nonostante questa sia la definizione che il dizionario Treccani in Italia dà, in realtà ci sono altri modi in cui è stata definita la parola intelligenza nel tempo e nella storia. In generale, comunque, questo aspetto che già vi ho accennato dell'avere cervello e non averlo, a volte c'è, a volte non c'è, e non è, diciamo, preso, almeno per quello che ho potuto leggere e vedere, non è preso come aspetto di riflessione. Quindi alcuni per l'appunto mettono la parola mentale all'interno della definizione e altri per l'appunto non la mettono, però non sembra che ci sia stata un'enorme riflessione al riguardo, o almeno fino a, diciamo, da tempi un po' più recenti, quindi intendo il Novecento, invece si è iniziato un po' più a ragionarci. In particolare c'è stato, diciamo, con da un certo punto in poi nella psicologia, si è iniziato a, appunto, ragionare dell'intelligenza in modo un po' diverso, un po' meno, per così dire, univoco, e quindi a pensare non l'intelligenza come un sono più bravo di te o meno bravo di te, quindi diciamo come solo un fattore scalare e appunto, diciamo, anche gerarchico in un certo senso, ma come una cosa molto più sfaccettata e quindi che può essere magari di più tipologie, può essere di più modi, può essere appunto, appunto come si dice, categorizzata in vari, in vari tipi. Per esempio, Raymond Cattell aveva iniziato negli anni 60 e il 900 a definire intelligenza fluida e un po' in modo contrapposto intelligenza cristallizzata. Fondamentalmente quella cristallizzata, le parole sono abbastanza esplicative, significa la memoria, fondamentalmente, quindi tutto ciò che è in magazzino ma che è un dato statico a cui io posso accedere chiaramente, però è un, appunto accedo al dato e lo riporto, mentre invece quella fluida si tratta di più di ragionamento, quindi uso anche gli elementi che ho nella mia memoria per poi però fare delle deduzioni, dei ragionamenti, il cosiddetto problem solving forse si avvicina di più a questa appunto intelligenza fluida. Invece dopo se ne è parlato anche un po' in un altro modo tra intelligenza logica e analitica, tra intelligenza logica e creativa, che però fondamentalmente era un po' lo stesso tipo di distinzione, mentre invece negli anni '80 è successa una cosa molto interessante, ovvero si presentò un certo signor Howard Gardner, che mi permetto di dire bellissimo cognome comunque, e negli anni '80 appunto, forse l'ho già detto, parlando delle intelligenze multiple. Questa è stata un po' una rivoluzione nell'ambito della psicologia, perché ha veramente approfondito tanto l'argomento, andando proprio a creare non più due sfaccettature, che già era un miglioramento rispetto a prima, ma non due, bensì 7, poi 9, poi 11, poi 12, cioè piano piano ne aggiungeva altre di queste multi intelligenze. E per questo magari mi potrebbe interessare, diciamo, raccontarvele un pochino meglio, ma ora in modo anche, spero, non troppo noioso, ecco, in modo molto molto sintetico, giusto per darvi un'idea. Nel frattempo magari un po' di tappetino ci sta anche bene. Allora, in particolare appunto erano vari tipi di intelligenze che, giusto per elencarvele, sono la intrapersonale, la interpersonale, qui gli errori sono veramente facili, linguistico-verbale, logico-matematica, musicale, naturalistica, visivo-spaziale, corporeo-cinestetica e filosofico-esistenziale. Ah, detta così sembra un po' una supercazzola, ma in realtà è molto interessante. Cioè, fondamentalmente, Gardner dice ci sono vari modi di essere intelligenti, tutti ce ne abbiamo, cioè tutti, diciamo, usiamo un po' ognuno di questi metodi, ma eccediamo, come si dice? Aiuto. Andrei per un eccelliamo. Eccelliamo, grazie. Un po' magari in uno, due, tre, insomma in alcuni di questi. E, oltretutto è anche interessante diciamo ragionare sul fatto che, parliamo per esempio dell'Italia, a livello di istruzione si punta molto più su alcuni di questi tipi di intelligenze e non su altri. Classicamente su quella matematica logica e su quella linguistico-verbale, mentre invece magari quella cinestetica è un po' più, anzi, decisamente dimenticata. Ci frega un cazzo. Ci frega un cazzo, infatti. Ecco, come muli proprio ai tavolini e basta. Più o meno, sì, è così. Ma poi, fra l'altro, solo in Italia, perché in realtà, cioè, in altri paesi, anche in Europa, fanno un sacco di lezioni anche di danza. Esatto. E anche semplicemente, non so, educazione artistica è molto più importante. Esatto. Rispetto a quello che è qua. Sì, questo è molto triste dal mio punto di vista, perché, cioè, si sa che c'è tanti altri modi di imparare e che proprio aiutano anche l'apprendimento convenzionale. Cioè, se io faccio movimento e nel frattempo studio su un libro, lo studio sul libro funziona meglio. Sì, sì, sono, cioè, perfettamente d'accordo. Si sa ormai che funziona così, ma siamo un po' lenti in Italia a cambiare, a quanto pare, a no, adattare. Ma poi si mortificano tutte quelle persone che magari sono super dotate in determinati ambiti e non, certo, in quelli canonici o convenzionali, che passano la vita a sentirsi stupidi, poverini, ma... Cioè. Esattamente. Infatti per questo, proprio per questo ho voluto citare anche questo aspetto qui, perché poi si vanno a creare un po' dei mostri, mi viene da dire, o mostri al contrario, cioè appunto gente che sarebbe molto intelligente, ma non viene valorizzata e quindi si sente magari esclusa, si sente stupida, incapace e mille altre cose, quando invece è semplicemente appunto non come viene richiesto. Allora, quindi, dicevamo, insomma, andando magari a ipotizzare di spiegarne qualcheduna di queste, partirei magari dalla cinestetica, forse perché me la sento molto su di me. Quindi corporeo cinestetica, si capisce meglio. È il fatto di dare innanzitutto molto significato al movimento e quindi anche alla gestualità e a tutto ciò che riguarda appunto muoversi nello spazio col corpo o anche con la faccia, appunto anche le espressioni rientrano in questo. Quindi chi magari ha una intelligenza corporea più sviluppata sarà una persona che innanzitutto ha probabilmente più piacere a fare movimento, a fare sport o attività tipo teatro, tipo danza, cose anche molto espressive, ma che non solo gli piace fare questa roba, ma trova una fonte di conoscenza in questo. Quindi riesce a, tramite il movimento inteso in senso largo, imparare delle cose. Appunto, forse anche un po' l'esempio che si diceva prima, se io leggo da una parte ma nel frattempo, o che ne so, mi ascolto un podcast mentre vado in bicicletta, magari ascolto perfettamente e tengo un sacco di informazioni. No, ecco, per me sarebbe deleterio, penso che mi ritroverebbero o a gambe all'aria in un cespuglio o che probabilmente non capirei la singola parola di quello che mi viene detto nelle cuffie. Vedi? Cioè, veramente zero, io da questo punto di vista proprio dura. Però tipo, non so, io sono un po' infognato negli ultimi anni con un'arte marziale e mi sono infognato con un'arte marziale che è il Kung Fu e lì c'è un sacco questa cosa dello studio delle forme, che sono di fatto uno studio approfondito di una serie di movimenti che hanno tutti un significato che uno può decidere di dare e quanto magari. Comunque rimane uno studio di fatto propriocettivo e cinestetico. Questa cosa, secondo me, è abbastanza banale da comprendere per chi magari viene da quella cultura là, però tipo, come si diceva prima, per noi lo studio motorio magari è vedere quanto in alto salti. Io mi ricordo di aver fatto alcune prove in cui si dà un voto in base all'altezza. In cui sì, me lo ricordo anch'io, non credo, con piacere, devo dire. Che credo sia una sorta di, non so, abominio dal punto di vista, cioè da qualunque punto di vista, da quello morale. E invece in alcune pratiche si studia per anni anche dei movimenti, quindi secondo me we are catching up, no? Come si dice, un po' interessante questa definizione. Esatto. E, riprendendo anche quello che parlavi del tuo esempio del dare il voto riguardo al salto, sì, è proprio il essere un po' di testa dura, nel senso, vedi, sono stato bravo, gli ho fatto fare sport e movimento, ma poi finalizzo tutto sempre con un numero. Quindi è un po' un tornare a alla cosa troppo semplice, non so come dire, non è certo una valorizzazione, ecco, di quello che uno riesce a fare per davvero. E, quindi appunto questo è un esempio, quello della intelligenza corporea. Ce n'è anche appunto tanti altri, per esempio quella filosofica, dove a quanto pare sono persone che hanno particolare bisogno, voglia, interesse nel farsi domande sul perché, sul cosa c'è dietro, e domande anche molto astratte. Questa è un po' la caratteristica, cioè alcune persone riescono a essere più materiali o difficilmente riescono a magari stare un sacco di tempo a parlare con delle persone di cose che tutto sommato non si vedono ma sono delle idee, mentre invece altre persone trovano non solo giovamento ma proprio un accrescimento personale, una ricerca, uno studio in questo. E questo appunto succede nel caso dell'intelligenza filosofica, che mi è tornato molto, non so, a me buffo leggere questa cosa, assomiglia molto all'intelligenza matematica e logica, perché anche la matematica è comunque una scienza astratta, anche se poi viene usata nella pratica, ma è comunque una serie di ragionamenti che innanzitutto sono appunto astratti, e quindi a quanto pare succede che le persone con intelligenza filosofica e quelle con intelligenza matematica molto sviluppate si troveranno bene insieme nel parlare, ora non dal punto di vista del carattere ovviamente, ma non si sta facendo l'oroscopo qui, quindi intendo... No? No. Scusate, ma dov'è la porta? Ecco, ma intendo nel parlare appunto di magari questioni più esistenziali e cose del genere. Avevi da controbattere al riguardo? No, beh, non è che... Secondo me è... Cioè, la capacità di astrazione è una cosa abbastanza profonda che accomuna un po' tutto, direi. Questo mi sembra che accomuni vari tipi diversi di intelligenze, no? Cioè, sì, alla fine, certo. Qualcuno potrebbe anche banalizzare dicendo che la capacità di fare collegamenti fra cose molto diverse, molto apparentemente lontane fra di loro, sia un modo per essere, per dimostrare qualche forma di intelligenza, no? E diciamo che la matematica e anche l'intelligenza filosofica, secondo me, cercano di fare dei ponti con delle cose che sono estremamente lontane, difficili da acchiappare, no? Quindi magari vengono percepite come un po' più distanti. Credo che però magari ci sia anche modo di riflettere su cose matematiche veramente nel quotidiano più vicino e più, tra virgolette, no, ma mi trovi semplice, molto, no? D'accordo in questo, ovviamente. Era più, sì, quella cosa, era la capacità di astrazione appunto che hai nominato all'inizio, era proprio questa capacità che non è di tutti, ecco, Di certo mia non è. Vedi? Ecco, avevo già un esempio. Comunque la cosa super interessante di questi studi di Gardner è che non erano finalizzati a categorizzare gli individui e quindi a creare delle classi, delle gerarchie, cose del genere, ma il punto è che, appunto, come già dicevo prima, tutti noi abbiamo tutte queste intelligenze. In alcune veniamo, cioè funzioniamo meglio, in altre peggio, ma possiamo esercitarci, se uno volesse, anche in quelli in cui uno riesce peggio. Quindi è per dire che il cervello è molto malleabile e è più forte in degli aspetti e meno in degli altri, ma tutta questa complessità, tutte queste 9 o 12 intelligenze che siano, ci appartengono. Cioè, noi tutte e tutti abbiamo questa complessità dentro, ed era proprio questa la rivoluzione, un po', potrei dire, che ha fatto Gardner in quest'ambito. Stavo pensando che, cioè, se vado un po' a intuito, ma se noi avessimo davanti un cervello e coprissimo le aree che, diciamo, funzionalmente più o meno sono associate a ciascuna di queste zone semantiche, diciamo, che hai, di questi concetti che hai illustrato, secondo me lo copriremo di fatto tutto. Cioè, alla fine, quello che si sta dicendo è un po' che l'intelligenza è la capacità di sfruttare tutte le aree del cervello, non solo quelle che apparentemente ci sembrano più vicine o più utili, sbagliando ovviamente. Quindi è un concetto, penso, abbastanza non ovvio. Come disse una volta mi viene da dire professore, però insomma è un professorone, diciamo, che si chiama Robert Sapolsky, se non vado errato. Lui disse: tutte le volte che si fa una categorizzazione, inevitabilmente si sbaglia qualcosa, no? Lui disse: quando categorizzi, in realtà tutto ciò che sta nel centro di questi secchielli che tu hai deciso di utilizzare, allora quello, vabbè, ci dai, riesci più o meno a... l'hai capito abbastanza bene, ma tutto ciò che sta ai bordi lo butti via e esce. Secondo me in questi casi bisognerebbe ragionare un po' uguale, no? Sicuramente questa cosa che ci può sembrare super utile, super ganza, e soprattutto anche magari fondata addirittura su un po' di neurofisiologia, in realtà ci sta facendo perdere, e questo secondo me è giusto tenerlo presente, tutto quello che sta un po' a metà fra queste cose, che invece ci sembra che non esista, però con un altro modo magari di pensare a queste cose si può recuperare, quindi... Ma lo sai che, a proposito di questo, non sapevo se dirlo oppure no, perché semplicemente è una mia una mia perplessità. Una di queste intelligenze, come ho letto prima, è la naturalistica. Ecco, se si va a leggere la definizione di intelligenza naturalista è tristissima, è veramente tristissima. Sapere quando innaffiare la pianta. No, scherzaci, questo non è tristissimo, per me è fondamentale. Ecco, non è facile, tra l'altro. Se questa è l'intelligenza naturalistica, io... Siamo a cavallo. Tristissima. No, invece, io ero tutta contenta di aver letto questo nome, intelligenza naturalista, vado a leggere e dice abilità di riconoscere e classificare gli elementi dell'ambiente circostante, punto. Cioè, sei un tassone. Nato. Sì, cioè, ma come, scusa, e la chiami naturalistica? Quindi mi spiego meglio su questa mia perplessità. Il punto è esattamente come dici te, cioè che non esistono nella natura, nella vera realtà delle cose, non quelle che noi ci immaginiamo, delle classificazioni. Cioè è tutto un continuum, anche uomo-donna non esiste in realtà. Alcune sono molto donne, alcuni poi vanno più verso l'uomo, poi diventa uomo e poi molto poco uomo. Cioè è tutto in realtà un continuo anche a livello biologico. E per fare un esempio, no? Che è appunto una categorizzazione di solito fortissima e si usa un sacco, invece anche quella, se uno va proprio a vedere nello specifico e nel dettaglio, è un po' fallace. Quindi mi fa veramente tristezza il fatto che abbiano scelto la parola naturalistica per definire un'intelligenza, a quanto pare è molto, appunto, dedita a trovare le differenze fra le cose, che non dico che non sia una cosa utile, per carità, però è sicuramente limitante anche. Ma forse questa definizione di intelligenza naturalistica, più che effettivamente al discorso della tassonomia o della classificazione, fa riferimento alla capacità di, fra virgolette, raccapezzarsi nell'ambiente, magari, non so, distinguere determinate piante o... Cioè, nel senso, una specie di orientamento innato in un contesto naturale, forse? Secondo me... Sto cercando un po' di risollevare questa... No, no, certo. No, no, allora, secondo me ci sta la grande... Questo tipo di intelligenza, per non farla sembrare triste. Mi sa molto di una di quelle cose che alla fine ti rendi conto che ci sono delle culture in aborigene che non Bravo, hanno nessuna di queste per dire, cose. Stavo, ti giuro, stavo troppo per dire gli aborigeni. E dici, cazzo, ma ora questa? Quindi butti dentro sta roba. Può darsi, però allo stesso tempo mi viene da dire, cioè riconoscere una pianta, chiunque ci si mette e studia un attimo due cose lo sa fare. Ah, non... oh, sì, Sì, sì. Lo so. Guarda. Sì, poi... Io mi sento magari... profondamente negato quando vado a fare le passeggiatine nel bosco, tutte le volte faccio questo, questo è un fico, no, un abete. Allora devi venire a passeggiare con me, perché io sono famosa per tormentare tutti i miei accompagnatori e accompagnatrici, adoro. Interrogandoli su quali piante si stiano trovando di fronte, mi per poi smentirli volo. Violentemente. Volo. Abbiamo un date, abbiamo un date. Sì, appuntamento nei boschi. Spettacolo, con nervature, bellissimo. Si fanno le passeggiate in nervature. Sì. Passeggiatine letterarie. No, comunque sì, è ovviamente anche come dici te. Quella che ho letto prima è la definizione stringata, cioè la sintesi, secondo loro, è questo. Io spero, non ho ovviamente letto un libro intero di Gardner, anche se sarei molto interessata a farlo, ma poi si chiama Gardner, come può essere, esatto, l'intelligenza naturalistica la più brutta? Esatto. E comunque non so se lui davvero intendesse questa cosa, perché poi quando invece sono andata a leggere cose dove non è sintetizzata ma un po' più spiegata, e lì c'erano delle cose che mi tornavano di più, del tipo si tratta di persone che hanno un particolare interesse a capire le relazioni fra gli esseri viventi e non solo, cioè fra tutto ciò che è biologia esistente. Ecco, stavo per insomma. Dire cioè, dei biologi, delle biologhe. Esatto. Sì, ovviamente poi tutte queste intelligenze si riscontrano spesso e volentieri negli hobby di ciascuno e insomma, nei lavori anche spesso di ciascuno e ciascuna, quindi chiaramente poi si ritrovano anche lì. Comunque, ecco, quindi probabilmente è molto più complessa del classificare e basta, però avevo notato, ecco, diciamo, questa stranezza di definizione, di linguaggio. No, che poi stavo pensando che... Cioè, anche cercando di fare una classificazione o comunque una categorizzazione delle forme di intelligenza, si introduce lo stesso bias di cui stiamo parlando. Certo. Quindi è tipo, cioè non lo so, ero qua che stavo pensando e ho detto, oddio, cioè, le stiamo classificando, Inception. Ma in realtà magari anche appunto le forme di intelligenza sono più strutturate secondo uno spettro piuttosto che secondo, non so, uno schema a torta. Quindi sì. Sicuramente sì, credo proprio di sì. Un po' anche quello che ci diceva Lorenzo prima, alla fine. Esatto, sì. Va bene, allora, abbiamo già parlato abbastanza. Forse potremmo rialzare un attimo questo tappetino e poi in modo non troppo netto, magari provare a passare all'argomento successivo. We'll be right back. Ed eccoci quindi che ritorniamo qui in voce, ci lasciamo di nuovo la musica qui come tappetino. Ora non vi sto dicendo i titoli e le tracce, ma tanto come sempre li trovate nella pagina del podcast sul sito radiowombat.net. Mi raccomando, non esitate a scrivere sul pad diretta wombat.vado.li, anche se noi non siamo in diretta, ma potremo leggere i vostri commenti nei giorni a seguire e rispondervi nelle puntate successive. Tan, tan, tan, tan. The next morning. Ok, quindi... rientriamo di nuovo nell'argomento e lo facciamo, lo faccio anzi dicendomi una cosa che mi era un attimino scordata ma decisamente, decisamente importante, ovvero quella che Gardner, quindi lo psicologo che negli anni 80 ha teorizzato le multi-intelligenze, dà come definizione di intelligenza appunto. E quindi è l'abilità di risolvere problemi o produrre prodotti che sono di importanti in un certo contesto culturale o comunità. È una definizione molto diversa da quella che abbiamo sentito prima, non tanto per la prima parte, perché parla di abilità, parla di problem solving, e però aggiunge anche produrre, quindi questo fatto di produrre cose o contenuti che siano, ma aggiunge anche un altro aspetto fondamentale, che è appunto un certo contesto culturale oppure comunità. Quindi lega l'abilità personale, nel nostro caso mentale, a un aspetto invece spaziale, temporale, appunto anche culturale. Di questo continueremo a parlare anche nel resto della puntata, perché vedremo appunto che come mai, ecco, questo aspetto è così importante. Partiamo però invece dalla prima parte della definizione, quella del problem solving cosiddetto, che come già avevo accennato prima, è un aspetto che è stato da un certo punto in poi nella psicologia tenuto molto in considerazione riguardo all'intelligenza. Quindi è molto facile anche trovare definizioni che dicono ok, l'intelligenza è il problem solving, in modo molto stretto e sintetico. Ora, come abbiamo visto, non è così, almeno dagli ultimi, per modo di dire, comunque degli anni Ottanta, da questi ultimi studi sembrerebbe non essere così, ma rimane comunque un fattore chiave, quello che si dice appunto anche a scuola, il ragionamento, non imparare le cose a memoria, ma ragiona, no? Non si capisce mai cosa pretendano gli insegnanti quando dicono questo. Comunque, se quindi guardiamo a questa definizione, scopriamo che in realtà... se la vediamo da un altro punto di vista, potrebbe non adattarsi soltanto all'essere umano, perché parla di abilità, parla di problem solving, di produrre qualcosa non ben specificato e poi anche dopo di un contesto, uno specifico contesto culturale e comunitario. Appunto, a cosa altro potremmo appioppare, diciamo, questa definizione? Ovviamente ci viene da pensare gli animali, forse. Io direi che questo è un argomento anche ormai forse che già maciniamo un po' tutte e tutti noi quotidianamente, anche banalmente, con i nostri animali domestici. Chiunque, penso, ha un gatto, anche di più un cane a casa e ha un rapporto con questo animale, un minimo di, appunto, interesse reciproco, perlomeno. Non Oddio, che... nel caso dei gatti non so se è reciproco, però... Magari funzionale, ma reciproco brava, sì, sì, c'hai ragione. Reciproco ma interessato. Poveri gatti. Esatto. Poveri gatti. Sì, poveri gatti. Ma... Potevate dirmi che erano dei gatti prima di... Ma queste merde brutte! E, insomma, quindi penso comunque, nonostante il tuo odio recondito verso i gatti, no, che no, si possa dire... ecco. Si possa dire che non sono animali stupidi né tantomeno incoscienti, cioè incoscienti nel senso di non coscienti. Attenzione a due parole impegnative. Esatto, infatti non addentriamoci anche nella coscienza, che è ancora un altro argomento. Esatto, vuoi davvero aprire questo vaso di Pandora? Esatto, esatto. Dai. Ma limitiamoci, fra virgolette, limitiamoci a rimanere su questo semplice concetto che è l'intelligenza. Direi che c'è... Secondo me è appunto facile, come dicevo, pensare che anche un cane possa essere intelligente. Il punto è che non fa le stesse cose nostre. Ora lì si tratterebbe di capire, andare più nel profondo, a capire come mai non fa le stesse cose nostre e se magari ne fa altre che a noi rimangono totalmente invisibili, magari, perché c'è anche questo bias qui, o questi bias qui, che noi in quanto esseri umani vediamo ciò che è simile a noi. Ma spingendosi ancora più in là, come sapete, visto Nervature ci piace parlare di piante e in generale di esseri non del regno animale, e quindi cerchiamo invece di estendere questa abilità nel problem solving e nel produrre qualcosa in un certo contesto, basta, in un certo contesto, anche a esseri ancora più lontani da noi, ancora più diversi soprattutto da noi. Come si può quindi, diciamo, ritrovare, se si può ritrovare questo tipo di abilità, di capacità anche nelle piante? Allora, appunto, se vogliamo intendere l'intelligenza come una facoltà che non è strettamente dipendente dalla presenza di un cervello e di un sistema nervoso, secondo me si può affermare con un discreto margine di... confidenza, diciamo, che le piante manifestino una loro forma di intelligenza. In particolare, appunto, se ci si concentra proprio su questo aspetto che tu hai menzionato del problem solving, ma anche sul discorso della capacità di adattamento. Perché c'è una cosa che si tende a non pensare, ma che a me piace molto pensare, è che per quanto riguarda gli animali e quindi anche gli esseri umani, molto della nostra strategia evolutiva si basa non tanto sulla capacità di risolvere un problema, ma quanto su quella di aggirarlo o allontanarsene, perché comunque noi tendiamo a basarci sul fatto di essere capaci di muoverci e spostarci. Quindi quando abbiamo fame necessariamente andiamo alla ricerca del cibo, ma se la vogliamo, diciamo, trasporre anche in senso più lato, cioè da tradizione l'umanità un po' si basa sul fatto di stabilirsi in un determinato luogo, sfruttarne le risorse, spostarsi in un luogo in cui ci sono altre risorse. E da qui tutti i problemi che questa strategia evolutiva comporta, perché si potrebbe incominciare col discorso del pianeta B che non esiste, eccetera, eccetera. Però, ecco, da questo punto di vista, in realtà, le piante vivono una situazione radicalmente opposta, rispetto alla nostra, nel senso che sono organismi sessili, quindi non possono assolutamente spostarsi alla bisogna, e quindi sono costrette a affrontare i problemi che incontrano nel corso della loro vita quotidiana. Quindi, in questi termini, le piante hanno delle capacità di problem solving che sono veramente raffinatissime, originali e completamente diverse rispetto alle nostre. Cioè, se vogliamo, in un certo senso anche più sviluppate, perché cioè, bisogna pensare che queste sono in grado di vivere e rimanere in vita per anni e anni senza mai poter scappare da un problema. Cioè, se non è questa la definizione di prendere una cosa di petto, cioè non so come dire, però quindi in questi termini di tronco di prendere una cosa di tronco, esatto. Quindi in questi termini le piante, diciamo, sono costrette ad avere delle capacità molto più raffinate rispetto alle nostre, cioè per il fatto che appunto non possono spostarsi, sono capaci di monitorare l'ambiente che le circonda e di adattarsi a questo in maniera molto più raffinata rispetto a noi. Cioè, secondo me il modo in cui le piante sono in grado di percepire ciò che le circonda è molto più approfondito rispetto a quello che siamo capaci di fare noi. E comunque, se anche vogliamo tenerci in termini, diciamo, un po' più canonici, o per rimanere un po' anche sul discorso delle forme di intelligenza di cui parlavi tu, cioè le piante sono in grado di fare, di svolgere funzioni complesse e hanno delle forme, delle capacità di intelligenza anche più, fra virgolette, tradizionali, fra molte virgolette. Cioè, ad esempio, le piante sono in grado di comunicare fra loro, le piante hanno una forma di memoria, le piante appunto percepiscono gli stimoli, sono capaci di integrarli, cioè sono capaci di ricevere più stimoli contemporaneamente e di elaborare una risposta funzionale alla moltitudine di stimoli che ricevono, e così via dicendo. Quindi appunto da questo punto di vista, secondo me, si può parlare di intelligenza delle piante. E questa è comunque una cosa che... Ma comunque stavo pensando che parlare con Lorenzo mi sta attaccando il suo dannato accento aretino. Comunque, fatto questo, aperta questa parentesi, ecco, mi sono dimenticata quello che stavo dicendo. Non sarei discriminata per questo, non lo c'è so. Mica problema, anche se non parlo un pochino d'aretino. Esatto. Esattamente. Mi trovi d'accordo, vabbè, forse non c'era bisogno, lo dicessi, comunque. Un po' di parte, forse. Un attimino. Nessuno di noi qua ti fa per le piante. Nessuno, ma chi, figurati. Però diciamo che mi piace ogni tanto rifare il punto sul cosa significa essere sessili, ovvero non potersi spostare. Se, immaginiamocelo, cioè io... Ok, vedo una pianta, quella pianta lì può succedere che domani, o insomma diciamo dopo un tot di tempo, non abbia gli elementi nutritivi che gli serve a fare una certa proteina. Sto sparando a caso ovviamente, però non ha più qualcosa. Come fa? A volte le piante muoiono, ovviamente, succede anche questo, come certo. Tutti gli esseri viventi, ma tendenzialmente deve trovare il modo di risolvere la questione. Deve trovare il modo di, ok, c'è un parassita che mi sta mangiando, cioè come se, immaginiamoci noi che appunto anche noi ci veniamo attaccati magari dai funghi, no? Ecco, questa cosa ma molto più intensiva, un po' a certo. Giro in tutto il corpo, è un problema grosso. Devo trovare il modo di allontanarlo e devo fare tutto con quello che ho, con il mio materiale genetico, quindi le mie capacità, diciamo, ma devo fare tutto anche con quello che trovo a disposizione nel mio ambiente, quindi l'acqua che trovo a disposizione, il pH dell'acqua, gli elementi che trovo nel suolo, quello anche gli aiuti che ci possono essere con gli altri esseri viventi intorno a me, perché ci sono le competizioni ma anche gli aiuti. E fatto sta che io, in quanto pianta, sono molto brava a immedesimarmi, sono perfettamente figlia del luogo in cui sono nata, in cui il mio seme è germinato, perché non per vivere ho assolutamente bisogno di quei nutrienti e non posso in alcun modo attingere a nutrienti che non sono nei miei faraggi. Questa è una cosa abissalmente diversa rispetto a noi animali, soprattutto noi esseri umani, perché come dicevi te, si arriva in un posto, si sfrutta, finite le risorse, bene, ci spostiamo, sfruttiamo un altro posto, o peggio ancora, sfruttiamo materie di posti dove noi non siamo fisicamente oggi, quindi importiamo dall'estero, e quindi questo crea però dei grossi problemi, perché poi appunto non abbiamo proprio percezione del nostro collegamento con l'ambiente, cosa che appunto, come dicevi, invece le piante hanno perfettamente, come dicevi appunto, percepiscono tantissimo. E anche su questo mi piace a volte fare dei parallelismi. So che molti scienziati in realtà odiano questa cosa di immaginarsi le piante come fossero esseri umani, però secondo me continua a essere utile in alcuni casi. Quindi appunto le piante, siccome tutta questa roba che abbiamo detto, devono vivere nel posto in cui sono e non possono spostarsi, devono avere completa percezione di cosa c'è intorno a loro, com'è, come cambia anche proprio da un istante all'altro. Anche per un albero che vive migliaia di anni, lui comunque riesce a sentire da un secondo all'altro la differenza fra un istante e l'altro, appunto. E quindi hanno un sacco di percezioni molto più sviluppate delle nostre, e proprio a livello pratico. Cioè noi vediamo, tocchiamo, gustiamo, ascoltiamo e annusiamo, più o meno, almeno a livello cosciente, sono queste cinque cose. Le piante, non si sa se a livello cosciente o no, ma questo ora non ci interessa, percepiscono un botto di roba in più, tipo il campo magnetico. Io non so dov'è il nord perché me lo sento dentro, cioè non funziona così. Lo so perché vedo una bussola o perché so che il sole tramonta a ovest, ma altrimenti non lo so. Le piante invece lo sentono proprio, lo percepiscono, come se noi vedessimo invece solo quello che vediamo, magari a un certo punto ci passa una striscia blu davanti che indica che, in quel punto del suolo c'è più acidità e io lo vedo, no? Cioè tipo una specie di videogioco. Sì, cioè, esattamente. Come adesso se fosse... siamo in Skyrim, tipo. Esattamente. Con la scia blu da seguire, bello sarebbe però, mamma mia. Sarebbe una figata, esattamente. Quindi noi umani di solito compensiamo queste nostre mancanze costruendoci dei sensori di temperatura, di pressione, di tutto quello che ci pare. E effettivamente per alcune cose riusciamo bene a compensare. Però fatto sta che sta roba non è nelle nostre abilità, la differenza. Anche il gradiente chimico, ad esempio, mi viene in mente che è una cosa che appunto, sì, sulla certo. quale la vita delle piante è interamente basata, mm-hmm. è una cosa che noi non siamo per niente in grado di percepire. Esattamente. Perché ovviamente essere in grado di percepire costantemente i gradienti chimici ti serve se non ti puoi spostare. Mm-hmm. Cioè, come se avessi costantemente la capacità di misurare l'acidità o comunque la composizione in termini di micronutrienti dell'ambiente che ti circonda. Cioè, per me è una cosa veramente affascinante, incredibile. Sì, senza dubbio. Infatti in questo, così la butto lì, ma poi non, niente, ritorno sempre sulla coscienza alla fine, ma giuro che non ne parliamo. Perché è molto assorbente come, sì, no? Sì. Vabbè, cioè, diciamo che hai trovato spunto per la prossima puntata di Filosofia della Scienza. Esatto. Che ti viene in mente di mettere su. Esattamente, devo trovare un filosofo allora. Come si fa? Sì. Però è molto tricky come argomento. Boia, un sacco. E quindi appunto, infatti, nella mia domanda, nella mia testa era: ma allora perché le piante non vengono di solito definite intelligenti? Forse perché noi confondiamo tra coscienza e intelligenza, chissà. Ma cioè, secondo me anche perché appunto tradizionalmente, come dicevi tu, una cosa che hai detto che mi è piaciuta molto è che noi siamo abituati a riconoscere quello che ci somiglia, cioè quello che vediamo simile, no? E in questi termini è per questo che secondo me nel corso della storia le piante sono sempre state viste, o meglio non viste, esatto. per quello che sono, nel senso, perché sono capaci di svolgere funzioni complesse che noi non siamo in grado di svolgere, che sono completamente diverse rispetto a quelle che noi siamo anche abituati a considerare funzioni complesse, e di conseguenza ci viene difficile usare una parola quale intelligenza che siamo abituati a usare per il nostro amico particolarmente sveglio, non so come dire. Chissà davvero. Comunque quindi è vero che di solito ancora oggi non definiamo le piante intelligenti, però anche nell'ambito scientifico c'è una serie di personalità che ormai osano e oltre dire questo, giusto? Sì, ultimamente, soprattutto poi anche in Italia, è venuto fuori un po' il discorso della branca della neurobiologia vegetale che è stata proprio fondata da un ricercatore che si chiama Stefano Mancuso, che diciamo ha appunto coniato questo termine neurobiologia vegetale, che è stato molto molto dibattuto e molto divisivo all'interno della comunità scientifica, perché appunto include il discorso del neuro, no? La N-word. Esatto, la N-word che abbiamo qui in Canada all'inizio della puntata. C'è qua Lorenzo, voi non lo vedete, ma lui freme, non vede l'ora. È qui che mi dà i calci sotto il tavolo, fammelo dire a me. Però appunto il tema è che le piante non hanno un sistema nervoso centrale, non hanno un cervello, e quindi parlare di neurobiologia vegetale è considerata un'operazione quantomeno pruriginosa. Però diciamo che, senza entrare nel merito della questione, senza stare a sviscerarla troppo, parlare di questi argomenti ha comunque aumentato molto la consapevolezza delle persone nei confronti dell'esistenza delle piante, della loro importanza e soprattutto delle loro capacità. Quindi diciamo che ad oggi un po' si sta sdoganando l'argomento, e comunque anche all'interno di tutta la comunità scientifica, come dicevi tu, si tende molto di più a considerare le piante come organismi dotati di certe forme di intelligenza, quantomeno. O se non altro di capacità. Esatto, ecco, capacità complesse, capacità di risolvere i problemi, e poi se uno vuole dire intelligenza, sceglie lui la definizione di intelligenza che preferisce, ma esatto, appunto alla fine se ne può fare un fatto lessicale, però da un punto di vista concettuale mi sembra che ormai, cioè, abbiamo chiarito che determinate cose le piante sono capaci di farle. Vorrei tirare un po' una piccola bomba. Vai. Tanto, no? Tanto ho mangiato molti fagioli. No? Mamma mia, sei veramente disgustoso. No, ma guardate, cioè, veramente, a volte presentarsi in pubblico con Lorenzo diventa davvero complesso. No, la cosa che volevo, cioè, non so, mi è venuto un po' da pensare a una cosa, no? Che tendenzialmente forse bisognerebbe, la comunità, diciamo, una comunità sicuramente in fisica in generale, volendo un po' in senso lato nelle scienze, si sta un po' rivolgendo verso lo studio di questi fenomeni che vengono chiamati fenomeni emergenti, cioè fenomeni dove ci sono una serie di elementi relativamente semplici, diciamo, in interazione fra di loro, e poi viene fuori qualcosa di più. Questo qualcosa di più può essere un comportamento su una scala più grande di questo oggetti. Ma tipo battere le mani al ritmo, no? Se vuoi battere le mani al ritmo, no, quando siamo a teatro, esatto. La sincronizzazione, tu avresti detto, è un esempio di un fenomeno emergente, volendo. Si potrebbe dire. L'avresti detto tu, perché io di certo non l'ho detto, io ho detto battere le mani al ritmo. No, in realtà è un ottimo esempio. Una cosa che io invito tutti a provare a fare è cercare su internet Game of Life di John Conway, che è un matematico. E Game of Life è un esempio, secondo me, estremamente eloquente di come si possa, a partire da regole molto semplici, quindi creando delle interazioni fra cose che nel caso di Game of Life saranno dei pixel sullo schermo, di fatto sia possibile ottenere dei comportamenti estremamente non ovvi su una scala più grande. Quindi io posso pensare di avere delle regole che possono essere, ora voglio fare un po', la lancio un po', però il modo in cui gli amminoacidi fra di loro si compongono le proteine e poi come questi si ripiegano, e poi lascio andare questo gioco e vedo un po' dove si arriva, no? Questa cosa chiaramente per qualcuno che ha un po' di esperienza in biologia gli può risuonare come di fatto un po' tutta la baracca, no? Sta su questo, cioè la struttura di noi poggia su delle regole che sono di basso livello, che poi mettono insieme tanti mattoncini e piano piano fanno un comportamento o comunque un qualcosa che invece è più, se vogliamo, tra mille virgolette, di alto livello. Questa cosa è una proprietà molto profonda della matematica e di un sacco di sistemi, come per esempio, per voler fare un po' degli esempi un po', diciamo, pacchiani, un po' facili, i formicai, gli alveari. Sono tutti esempi di sistemi e in cui... E i banchi di pesci non ce li infili? I banchi di pesci? Perché no? Quelli sì, anche loro sono... È vero, anche loro. Grande anche loro. Esempio di capacità emergenti, esatto. Sai? Specialmente quando vanno verso l'alto. Il... No, vabbè, l'ha detto. Il... la cosa che trovo interessante è che alla fine per fare un comportamento non ovvio basta veramente pochissime regole, e quindi quello che un po' si sta iniziando a capire è che se uno rilassa questo concetto di intelligenza, in realtà trovare dei comportamenti intelligenti è straordinariamente facile, spesso basta pochissimi ingredienti. E questa cosa penso che sia uno spunto curioso, no? Perché uno pensa, vabbè, magari per essere intelligente devo trovare... In realtà, per avere le robe non ovvie bastano veramente pochi ingredienti. Se non ricordo male, su Game of Life di John Conway, no, forse John, non sono super sicuro sul nome, però bastano 5 regole per creare un sistema che, come vedrete, se siete curiosi, ricorda moltissimo quello che uno può vedere guardando uno stagno in cui sono pieni, in cui ci sono tantissimi batteri, oppure può creare una serie di sistemi in interazione dove ci sono delle robe che ricordano molto degli esseri viventi che si spostano, interagiscono. Addirittura Game of Life è Turing completo, cioè è un set, questo sistema, diciamo, è un set di regole che è capace di portare, diciamo, fino in fondo degli algoritmi, cioè cose molto complesse. E bastano pochissime regole. Quindi, in realtà, per avere dei comportamenti intelligenti, forse non è necessario arrivare anche a delle scale degli esseri viventi, tra virgolette, ma può bastare anche molto meno, come, per esempio, 5 regole. No, super pensiero è rincuorante, posso dirlo? Aspetta, dipende da che punto di vista lo vedi, perché potrebbe voler dire che o in realtà siamo tutti stupidi, ma esatto, non lo rincuorante. Sappiamo. Esatto. Io stanotte dormirò bene, voi non lo so. Oppure forse in modo appunto più rompiballe, ma potremmo dire, ma allora forse non è intelligente questa cosa, allora forse quello che io chiamavo intelligente in realtà è un'altra cosa. Io penso che il sistema natura di per sé è un qualcosa di profondamente intelligente. Io penso che a qualunque scala tu puoi trovare, secondo me, delle regole che generano comportamenti non banali. Io poi, questa è anche un po' un'opinione di persona, diciamo, non è che c'è ovviamente uno dice, no, sai, il comportamento intelligente è associato a, che ne so, al numero di parola strana di un sistema, no. Purtroppo, secondo me, non c'è ancora questo approccio così, se vogliamo, sotto alcuni punti di vista, e per fortuna non c'è anche, quantitativo nei confronti di queste cose, però... Io l'ho trovato una cosa che quando ci entra in contatto è estremamente affascinante, l'idea che dei comportamenti, che io non sto giudicando adesso, no? Dei comportamenti semplicemente interessanti, se vuoi, per te che li guardi, assolutamente non banali, poco predicibili, mm-hmm. e anche con un fine che può essere ben identificato, possono essere creati da un sistema che ha 5 regole di interazione, dove queste regole di interazione sono semplicemente com'è che io devo colorare i pixel di uno schermo in base ai vicini intorno. Con un numero di regole super basso, ora io dico 5, poi sicuramente non sarà 5, però non è 10, ecco, è sicuramente un numero molto basso, è sufficiente, cioè quel numero del genere è sufficiente per avere cose, vi assicuro, strabilianti. Addirittura Game of Life, che è anche un po' secondo me la parte ganza, è uno dei motivi per cui secondo me è stato anche dato questo nome, anche se, vabbè, poi si deve dilungare tanto su queste boiate, si frega. Però uno dei la cosa che trovo interessante è che Game of Life può replicare se stesso a una scala più grande. Cioè, io posso avere che esattamente le regole che io metto a livello dei pixel si replicano su un qualcosa che è più grande, tipo a livello di un'immagine che è grande centimetri, non un pixel, no? E quindi ha questa proprietà di avere una sorta quasi di invarianza di scala, se emergente. Emergente, qualcuno direbbe, sì. Esatto. E quindi, ecco, lo trovo curioso, forse vale la pena anche, no, così dico, per buttare là delle riflessioni ora, pensare a questo, appunto, senso. E allora però la cosiddetta intelligenza artificiale quanto si è allontanata da questo meccanismo che ci è appena descritto, cioè qua, nel senso, magari è partita da qui, però poi quanto è diventata più intelligente o più complessa? Ma allora, diciamo, ti direi, l'intelligenza artificiale purtroppo non credo sia partita da qua, nel senso, in realtà l'intelligenza artificiale ti direi che è partita di nuovo dalle solite assunzioni che dicevamo prima, cioè dal guardarsi noi. Uno si è messo a guardare gli esseri umani e ha detto, boia, mi farebbe comodo proprio avere qualcuno che fa le stesse cose, come posso farlo? E quindi emulando, se vuoi, certe proprietà che noi a fatica abbiamo riconosciuto essere, mi viene da dire, comode da simulare. Di nuovo, come dicevamo anche prima, no? Questo discorso dell'essere simili, dell'essere utili, è un qualcosa che è estremamente legato all'ambiente, quindi non è che c'è una roba generica, famoso, cioè non è possibile trovare una soluzione a tutto. Certo. Addirittura ci sono anche dei teoremi che vanno in questa direzione, cioè è una cosa che si può veramente essere belli sereni di affermare, però l'intelligenza artificiale è partita un po' da questo. Perché non copia, dici, da Game of Life, se esistono delle regole così semplici che possono avere comportamenti complessi? Perché Game of Life, così come tante cose di questo tipo, sono difficili da controllare. Invece se io voglio qualcosa che poi posso sfruttare, io voglio che sia facile da controllare, voglio poterla indirizzare bene. Io, se voglio imparare a riconoscere i cani dai gatti, voglio essere sicuro che lui questa cosa la fa bene. Poi a me, se è intelligente o no, questa cosa in realtà mi frega il giusto. Spesso sono guidato più dalla necessità di risolvere dei problemi, per l'appunto io, tra virgolette, essere umano, no? E quindi questa cosa poi viene trasportata lì. E chiaramente nelle AI si tende, cioè comunque quando si vuole insegnare o simulare, se vogliamo, un comportamento intelligente, o nella fattispecie se si vuole insegnare a una macchina a risolvere un problema, si utilizza una forte astrazione. Di nuovo, no? L'astrazione secondo me è un po' come prendere una lente di ingrandimento molto molto forte, quindi se tu la punti in una certa direzione, quello che è nel fuoco lo vedi bene, ma quello che è intorno lo perdi, no? E quindi quando si fa questa cosa con le AI si tende in realtà a, come adesso probabilmente vi dirò tra pochissimo, a banalizzare tantissimo queste cose che abbiamo detto. Ma è un po' anche il discorso che facevi prima, no? Dell'introdurre bias quando, cioè, si guarda qualcosa molto nello specifico, e infatti mi è venuto subito in mente il paragone con quando io guardo qualcosa al microscopio, cioè che tutto quello che è in campo è messo estremamente a fuoco, anzi se vogliamo sviscerato nei limiti del possibile, mentre tutto quello che è intorno è fuori piano. Sì, penso che sia proprio, cioè, un esempio perfetto. Cioè, questo è l'approccio che si ha nei confronti, se vogliamo, della risoluzione dei problemi quando si fa, diciamo, AI, quando si fa intelligenza artificiale. Si dice, qual è la cosa che devo risolvere? Io ho bisogno, mi viene un po' da sorridere perché prima tu dicevi con un numero non si fa nulla. In realtà praticamente il grosso degli step in AI si fanno dicendo, allora, io voglio avere un numero che mi dice quanto sto facendo bene. Questo numero deve avere la proprietà che se io faccio meglio, lui diminuisce. Se io invece faccio peggio, questo numero aumenta. Infatti si chiama perdita, perché io voglio perdere il meno possibile, no? E poi quello che te fai è trovare il modo di rendere questo numero il più piccolo possibile. Questo numero può essere un qualcosa che ti quantifica quanto stai facendo bene a classificare i gatti e i cani. Allora, tutte le volte che tu sbagli a dire che una cosa è un cane o un gatto, questo numero aumenta. Invece se lo classifichi bene, questo numero diminuisce. Ma questo numero può anche essere quante partite a scacchi stai vincendo, com'è la tua situazione attuale a scacchi. E poi dopo tu ti preoccupi solamente che, avendo un'enorme quantità di esempi, tu riesca a rendere questo numero il più piccolo possibile, ma non sui tuoi esempi, cioè sulle cose che hai visto, non sulle immagini dei cani e dei gatti che hai utilizzato per imparare a classificare i cani e i gatti, anche su altri cani ed altri gatti che non hai visto. E la magia, che secondo me è anche una riflessione interessante da portare, è che, curiosamente, avere un elevato numero di esempi e un elevato numero di gradi di libertà, se vogliamo un elevato numero di possibili stati in cui il mio sistema può stare, un po' come se io avessi una tela bianca, e se la tela è molto piccola non è che posso fare tanti quadri, se la tela è gigante io posso fare tantissimi quadri diversi. Ecco, per poter imparare a classificare bene i cani e i gatti e in generale a fare cose ben più complesse, serve tantissime immagini di cani e gatti, un numero elevatissimo di dati e una tela sufficientemente grande, un modello sufficientemente espressivo, si direbbe in gergo. La cosa che io ho trovato all'epoca, che secondo me è veramente stupenda, è che quando io vado a farmi le domande su quali sono gli ingredienti veramente rilevanti nell'AI, c'è un po' quella che viene chiamata la dura verità, ed è che la cosa che veramente è rilevante è il numero di gradi di libertà che tu hai, ovvero quanto è grande questa tela. Se tu hai una rete neurale, l'ho detto, cioè se tu hai un modello, un oggetto che simula, ovvia, che simula il cervello, allora in sostanza il numero di neuroni che questo oggetto ha, cioè il numero di singoli costituenti che tu usi, è un parametro importantissimo per poter imparare cose sempre più complicate. E a me questa cosa mi ha sempre affascinato, perché? Perché da un lato imparare qualcosa è un qualcosa relativamente semplice, no? Tu dici, vabbè, io voglio diminuire un numero, questo alla fine è l'allenamento. Però dall'altro poi ti rendi conto che se utilizzi un qualcosa di sufficientemente complesso, questa qualcosa può davvero imparare a rendere questo numero basso, cioè a fare bene anche su cose che non ha visto, a generalizzare, come si dice. E per fare questa cosa fatta bene spesso serve una grande potenza computazionale, un grande numero di manopole che io posso girare, aggiustare per poter dire ok, questo è un cane, questo è un gatto, oppure un grande numero di gradi di libertà, un grande numero di colori, di pennelli se vogliamo, per poter dipingere questo quadro utilizzando il numero di dati che io ho, utilizzando questa grande quantità di dati che io ho a disposizione. Quindi alla fine regola un'astrazione molto forte, cioè voglio un numero piccolo. Com'è che posso diminuire questo numero? Lo posso diminuire, diciamo, avendo a disposizione certi gradi di libertà che io ho nel mio sistema, nel mio oggetto. Ora qui purtroppo viene un po' male senza poter disegnare niente. Però ho vari esempi. Gli esempi che ho sono tante immagini, sono tanti scritti, sono tante cose che io posso utilizzare per imparare. In realtà io sono in grado di riconoscere i cani e i gatti, o comunque di portare a termine il mio compito quando ho un grande numero di questi gradi di libertà. Se ho modo entrerei in questo vaso di Pandora dei gradi di libertà, che secondo me può essere ganzo. Com'è che la gente ha iniziato a dire, vabbè, i gradi di libertà io come posso averli? Guardo il cervello e cerco di far uguale. Questo è come è nata un po', se vogliamo, vabbè, semplificando tantissimo, come sono nati i moderni tool, i moderni strumenti di intelligenza artificiale. La gente ha iniziato a aprire il cervello e ha detto, guarda, quando io voglio imparare a discriminare i cani dai gatti, io ho gli occhi che guardano fuori, e quando io guardo il cane e il gatto, c'è un primo gruppo di celluline che si eccita e che ha tutta una serie di attività, diciamo, elettriche, che poi vengono passate indietro ad un altro gruppo di celluline e poi ancora indietro fino ad arrivare a un gruppo di cellule che poi è l'ultimo che mi fa dire, ah ok, questo qua è un cane o questo qua è un gatto, se vogliamo, semplificando tantissimo. Allora io cosa faccio? Prendo degli oggetti che sono dei neuroni artificiali, si chiamano così, e questi neuroni artificiali sono proprio la copia, ovviamente astratta e quindi di nuovo semplificata e sbagliata, deliberatamente sbagliata, dei neuroni biologici. Quindi io mi accorgo che queste celluline che hanno queste proprietà sono fatte così, pescano informazione dall'ambiente o da altre cellule che hanno intorno utilizzando delle connessioni, dei tubicini se vogliamo, che si chiamano dendriti, e poi dopo scaricano la loro corrente verso un'altra cellula utilizzando una cosa che si chiama assone. Allora io le faccio uguali, però molto più banali. Prendo e faccio dei filini invece che prendere esattamente i dendriti come potrei, e poi se il numero di input, chiamiamoli, che arrivano dal mio neurone è più alto di una certa soglia, allora lui mi scarica verso un altro neurone o più neuroni. Basta, tutto questo. Quindi io prendo tante di queste celluline finte e le metto insieme, le collego uno a tutti gli altri, via dicendo, fino a creare un gruppo di questi neuroni artificiali che formano una rete, che è una rete di neuroni finti, e quindi viene comodo chiamarla rete neurale. Questa rete neurale è scimmiotta in tutto e per tutto il cervello, quindi quando io gli farò vedere un'immagine, invece che fargli vedere un'immagine nel mondo vero, gli farò vedere un'immagine nel mondo digitale, quindi gli farò vedere una collezione di pixel con dei colori, e questi colori semplicemente sono le attività che sono i segnali che arrivano ai miei neuroni finti. E questi neuroni finti li elaborano, non so come, fino ad arrivare in fondo a una predizione. Questa predizione io lo so come deve essere, perché lo so se gli ho fatto vedere un cane o un gatto. Io posso fare questo gioco, posso aggiustare l'intensità di queste connessioni, rendendole più o meno forti, in modo tale che l'output, cioè la parte finale di questa mia rete neurale, mi dica sì, quando è un cane, e no quando è un gatto. Tutto qua. E io posso giocare con tutte queste connessioni, che se ho un neurone o due neuroni sono poche, ma se ne ho miliardi, o come stiamo andando adesso, milioni e milioni di miliardi, beh, il numero di modi in cui posso aggiustare questi filini diventa molto interessante. E la cosa, secondo me, strabiliante è che in questo modo, con questa banale schematizzazione, dove io do un'immagine di un cane, aggiusto in modo tale che l'output sia effettivamente quello, sì, è un cane. Do l'immagine di un gatto e l'output deve essere, no, non è un cane, è un gatto. E via, e faccio questa operazione un po' per volta su tutte le immagini che ho a disposizione, è un po' una magia, ma diciamo semplificando un po', ovviamente, chi magari sa un po' di queste cose mi perdonerà, è... alla fine questo oggetto funziona bene, riesce a distinguere i cani e i gatti. Ora, cani e gatti sicuramente non è che, per l'amor del cielo, però è un po' poco per dire intelligenza, ma se ci vogliamo mettere come output magari un discorso, una frase, quindi scegliere che parole dire, beh, magari iniziamo ad andare un pochino più vicini verso quello che può essere l'intelligenza, nel senso quello che qualcosa che noi percepiamo come comportamento intelligente. E credo che stia diventando sempre più semplice fregarci. Sempre più semplice la possibilità, la capacità che hanno per queste, chiamiamole reti neurali, è sempre più semplice dare degli output, delle frasi, se noi gli diamo in ingresso dei testi, è che sembrano sempre di più dei testi umani. Per fare un esempio, basta digitare modelli di linguaggio, ora non so se si posso dire addirittura il nome, però diciamo tipo ChatGPT o chi per lei, Gemini o qualunque, Llama, per dirne anche qualcuno magari che è un pochino più open, e uno si accorgerà che in realtà, insomma, sono belle forti, cioè sono brave, su dei discorsi relativamente semplici ti fregano, puoi pensare davvero che di là ci sia un essere umano che ti sta rispondendo. Quindi, ricapitolando, gli ingredienti sono tanti gradi di libertà, la possibilità di aggiustare finemente il comportamento della mia rete neurale, e tanti dati. Pare, ad oggi, che con questi due ingredienti, beh, non si arriva di certo a fare... Leonardo da Vinci, ma si può andare molto vicino a fare tante cose non ovvie. E alla fine questa cosa è molto parente al gioco Game of Life, perché lì ci sono tante configurazioni diverse dei pixel sullo schermo, e invece nella mia rete neurale ci sono tante configurazioni diverse delle connessioni tra i miei neuroni. E questo fenomeno qua sembra un po' il paradigma per imparare le cose in maniera automatica, però ovviamente è un aspetto dell'intelligenza che noi abbiamo arbitrariamente detto essere quello utile, non frega nulla a nessuno della parte chimica qua, mi sembra abbastanza chiaro, o della fedeltà che questi oggetti possono avere rispetto ai neuroni veri, non ci interessa, perché qua vogliamo risolvere un qualcosa, invece... Se vogliamo, quando io voglio dire che qualcosa è intelligenza, non so, devo avere un approccio un pochino più olistico, mi verrebbe da dire, un po' più, no? Omnicomprensivo, cioè è un po' riduttivo avere un compito su un numerino. Nell'AI spesso si usa il numerino, quindi ecco, chiaramente va a prendere un po' tutto con le molle, però parte da quello, parte dall'osservazione, parte da queste riflessioni qua, se vogliamo, secondo me. Sì, infatti... Il motivo anche per cui mi interessava veramente tanto parlare di questo in questa puntata in particolare era proprio per sviscerare un po' e capire da dove viene questa nostra voglia di chiamarla intelligenza. Per come l'hai detta te, a me personalmente verrebbe da dire, e ritorno lì, allora forse questa non è intelligenza. Ma il punto per me non è dire se ho ragione, cioè non è dire chi ha vinto fra la parola intelligenza e un'altra che si può scegliere al posto di. Il punto è proprio chiedersi cosa noi, che valore il nostro cervello e noi in generale applichiamo a un certo vocabolario, e quindi appunto da tutta questa cosa incredibile ci hai spiegato, per me incredibile ci hai spiegato. Mi sembra di capire quindi che un fattore chiave è il numero, la quantità. Che la quantità sia... di esempi e la quantità di connessioni, esatto, sono cruciali. Esattamente, quindi è un discorso proprio di grandezze anche, esatto. se si vuol dire così. E se vogliamo uno dei grandi vantaggi, credo, non vorrei dire una castroneria totale, però... Una delle differenze più grosse che noi abbiamo con i primati... è il numero di connessioni che noi abbiamo nel cervello, e pare che sia proprio una mutazione sul gene relativo, sui geni relativi a questa cosa, che ci ha dato il grosso boost. Alla fine il numero è notevole, e anche come disse, oddio, adesso mi sa che dico un'altra boiata, aveva dato Massimo Setaglia, ma che c'è. Kasparov? No, no. Non lo so. Comunque un giocatore di scacchi famoso, quando gli venne detto, guarda, ma non sei preoccupato che adesso è possibile, insomma, imparare a giocare a scacchi utilizzando delle robe tipo intelligenze artificiali? E lui in realtà era preoccupato, perché diceva, guarda, cioè, se hai quantità puoi ottenere qualità. E questo è un po'... ora non mi ricordo se il contesto era questo, però la frase fu un po' questa. E secondo me è un punto interessante. Quello che io credo questi moderni oggetti ci stiano insegnando è che con la quantità, se usata sapientemente, con attenzione, si può ottenere la qualità. E io credo che la natura un po' questo l'abbia nasato, forse no? Che... Ci sta, effettivamente. Ci sta. E, a questo, dico l'ultima cosa, poi magari uno stacchettino musicale, tipo da un'ora e parliamo a diritto. Appunto, a questo mi viene da collegare il fatto che siccome appunto ci viene da chiamare l'intelligenza, ma è solo, fra grandi virgolette, una questione di quantità, poi mi ucciderai, ma insomma diciamo solo, fra virgolette. No, no, è giusto come è, cioè... Non trovo sia sbagliato, okay, rendersi conto che alla fine la grande madre dei comportamenti che noi chiamiamo intelligenti nell'intelligenza artificiale è la statistica. Esatto, questo voglio dire proprio urlando. Mm-mm. È la statistica. Mm-hmm. Non lo fare, se no assordiamo tutti. No, esatto, clippo male. Però sì, è questa la cosa che... cioè, la statistica è la grande madre di tutto questa baracca. Ecco, e quindi appunto è utile, molto utile il fatto che tu ci abbia delucidato su questo, perché noi, diciamo, usufruitori dello strumento intelligenza artificiale, qualsiasi esso sia, vediamo soltanto il risultato finale. Perciò per noi è molto difficile, e a volte anche non abbiamo proprio accesso all'informazione, di capire da dove questa viene, quindi come fa, ecco, fondamentalmente. E quindi ovviamente ci viene da dire, vabbè, certo è brava, e allora la personalizzano e dico, ah, brava, ha capito, è intelligente, no? Però ecco, appunto, mi sembra sempre molto utile ritornare alla fonte, ricapire cosa sto facendo, cosa sto usando e quali risorse anche, tra l'altro, ho usato, perché sì, comunque tutto l'addestramento, le persone si sono messe lì a dire sì, questo è un cane, questo è un gatto, che ovviamente ci sono state anche loro, e tutte le foto, tutte le informazioni. Questo l'abbiamo fatto, direi, anche un po' a gratis tutti noi. Esattamente, usando, con senza, i captcha. Accettando, sì, accettando sì, i cookie senza guardare esattamente troppo. Esattamente. E questo anche, ecco, appunto, era solo per dire importante. Stacchettino musicale e ritorniamo fra pochissimo. Send me a bibia. Ayo town, I'm a Niente, le chiacchiere fuori dai microfoni si interrompono drasticamente, mi dispiace, ma era finita la canzone. E certo, sentitevi libere. No, io in realtà stavo un po' riflettendo, no? Stavamo anche un po' riflettendo. Cioè, mi chiedevo se questo, cioè alla fine mi sembra di capire che anche nelle piante ci sia un po' questo, cioè ci sia molto questa sorta di paradigma di integrare informazione da un'area abbastanza grande e poi prendere una decisione, una sorta di output locale. È giusto? È un'impressione corretta? È giusto, assolutamente sì. Cioè, si ricollega un po' al discorso della percezione degli stimoli che facevo prima e della capacità delle piante di integrare anche molteplici stimoli per produrre una risposta singola. Però ad esempio a livello dell'apparato radicale appunto è esattamente quello che succede, cioè le piante sono in grado di percepire moltissime variabili, diciamo gradiente chimico, gradiente di temperatura, gradiente di acqua, presenza di altre piante, di determinate molecole piuttosto che di altre, e di produrre appunto, come dicevi tu, una risposta a livello locale, ad esempio crescere in una determinata direzione piuttosto che in un'altra. Mi verrebbe da dire che quella che viene chiamata funzione costo, lì è un po' vivere o morire, no? Ma infatti, guarda, per le piante si usa moltissimo questo discorso dell'equilibrio fra, in un certo senso, appunto, funzione costo. Cioè, il fatto che le piante debbano sempre trovarsi in una situazione di compromesso. Mi viene in mente anche il discorso che della fotosintesi. Chissà perché mi viene in mente la fotosintesi, però capisco una cosa che spesso si tende a non considerare è che le piante, quando fanno fotosintesi, devono aprire i cosiddetti stomi, cioè i fori che hanno sulla superficie delle foglie che consentono gli scambi gassosi. Ma nell'aprire gli stomi tendenzialmente si disidratano, quindi quando le piante fanno fotosintesi rilasciano anche vapore acqueo all'esterno, e questo fa sì che in determinate condizioni che potrebbero apparentemente sembrare ideali per svolgere l'attività fotosintetica, ad esempio situazione di sole pieno e quindi temperatura elevata, in realtà le piante si trovano in una situazione molto svantaggiosa, perché se decidono di fare fotosintesi, ho detto decidono, qui già, in quella specifica circostanza, rischiano di perdere moltissima acqua. E quindi in realtà quando ci troviamo ad agosto dopo pranzo alle 2, vediamo queste piante che sono sotto il sole che picchia e pensiamo, vabbè, chissà quanto stanno facendo la fotosintesi, almeno viene da pensarlo a chi pensa alle piante, in realtà in quel momento le piante non stanno facendo la fotosintesi e stanno con tutti gli stomi chiusi, perché sanno che in quel momento fare la fotosintesi, che pure per loro è fonte di energia, è in realtà una perdita rispetto che un guadagno. E quindi appunto si parla sempre di questo equilibrio fotosintesi-traspirazione in cui le piante devono in un certo senso destreggiarsi. E mi è venuto in mente un po' a partire da quello che dicevi tu. Io temo che sia proprio questo paradigma, no, di avere un qualcosa, un po' come nelle reti neurali era l'uscita, l'ultimo neurone che dice sì, mi accendo, era un cane, oppure no, non mi accendo, allora era un gatto. E in realtà questa cosa può consentirti di misurare quanto stai facendo bene. Tutte le volte che c'è questo tridente fra un input, un qualcosa che elabora l'informazione e quindi anche un output, e una misura di performance, puoi sempre apprendere, puoi sempre avere un comportamento che voglio sbilanciarmi, tra virgolette, intelligente. Vien da sé che se io ho un oggetto che fa il delirio a giocare a scacchi e poi gli chiedo di classificare i cani e i gatti, lui fa cagare. Quindi si vede, secondo me, in maniera molto banale che per quanto adesso esistano, come mi sembra, siamo i stockfish, insomma intelligenze artificiali, chiamiamole, che sono questa collezione, potete pensarle come una collezione di questi neuroni che vengono collegati fra di loro e finemente vengono aggiustate queste connessioni, che prende in ingresso la scacchiera e dice in output che mossa fare. Beh, questa cosa qua batte il miglior giocatore di scacchi sempre, veramente non è possibile sostanzialmente per il miglior giocatore di scacchi vivente battere un AI oggi, e questo in sempre più cose. Ma se io prendo questo oggetto e gli dico questa non è una scacchiera, ma sono in questi pixel sono dei cani e questi sono dei gatti, dimmi cos'è, ovviamente l'output è random, cioè non ha senso fare questa domanda. C'è sempre questo interplay fra il dato e quindi l'ambiente e la rappresentazione interna della rete neurale, quindi che cosa hai appreso. Il contesto è fondamentale in tutto, in ogni cosa, quindi secondo me anche quando si parla di intelligenza cerchiamo sempre di avere in testa quello che è il contesto nel quale noi stiamo verificando questa cosa. Quando io metto sto numerino, questo numerino non è un numerino per tutti, è un numerino in quel gioco lì, e questo secondo me è da tutte le scale, però forse la natura c'ha, no? Il passare i geni, mi verrebbe da dire, come numerino. Quanti ne hai passati? Molti? Bravo. Pochi? Chissà. Aiuto! Non so, ora potrei sbagliarmi, ma... Si è sbilanciato il ragazzino, eh? Sì. Quanto vuoi vincere tu a questo gioco? Vai. Forse i geni comunque non è l'esempio Game of giusto. Life, lì abbiamo capito in realtà cosa intendevi. Un attimo. No, perché comunque... tipo una spiga di riso, cioè una spiga, la pianta del riso c'ha un DNA un fottio di volte più lungo e grosso del nostro, e uno direbbe allora è un genio, eppure non si dice così. No, di solito. In realtà questo è un bias molto comune, cioè il discorso che la quantità dei geni non corrisponde assolutamente alla complessità dell'organismo, esatto. È vero. Esattamente, sì. Invece, che casino, cioè, la mia testa c'è una serie di intorti di ragionamenti. Ma guarda anche la mia, non ti preoccupare. Sì, sì, sì. Non se ne viene mica a capo. Qui non se ne esce. Qua se ne chiacchiera, esatto, però esatto. Non se ne esce. Esattamente. Non se ne esce. E si rende solo più invece... complesso. Esatto. Il tema. Pensavate di andare sì. a letto con delle risposte? No, no. Andrete a letto con delle domande. Tante, tante domande. e dei giudizi negativi. Sì, sì, su di noi e sul mondo. Sicuramente. No, comunque ragionavo sì, che è sempre comunque un discorso di scala, perché spezzando, se vogliamo, la lancia a favore stavolta l'intelligenza artificiale, che io invece di solito ne parlo in modo negativo, anche se ovviamente apprezzo i risultati che dà tantissimo. La frase che disse Einstein: ma non puoi chiedere a una scimmia di nuotare a un pesce di salire sull'albero, non puoi chiedere a un programma di intelligenza artificiale che è stato istruito per giocare a scacchi di fare qualcos'altro. E ritornando invece completamente all'inizio di puntata, non si può chiedere, anche se la scala è diversa appunto, ma non si può chiedere a qualcuno, una persona che è molto brava nell'atletica, di risolverti dei problemi complicatissimi di matematica. Cioè, alla fine si sta parlando sempre dello stesso paradosso, a una scala, come dicevo, appunto un po' diversa. Sì. Io penso che proprio il take home message più prezioso è che qualunque misura di performance, quindi di quanto sto facendo bene, che se vogliamo è un modo un pochino più ganzini per dire quanto sono intelligente, alla fine è un po' lo stesso paradigma, un po' la stessa questione, no? Qualunque misura di questo tipo è vincolata in maniera radicale all'ambiente, a che cosa sei stato, a che cosa hai visto, non è, e che è anche secondo me un messaggio estremamente bello dal punto di vista sociale, no? Cioè non, il dire io sono meglio di te, sono peggio di te, è una cosa che non ha nessun senso, perché per poter fare questa affermazione è necessario avere condizioni ed ambiente uguali, e questo non è mai vero, quindi non si può mai dire una cosa del genere. È sempre un po' il discorso del microscopio, no? Sì. Vedi quello che guardi alla fine. Quindi in un certo senso, appunto, la performance si può misurare solamente sulla base dell'aspettativa che uno pone a monte. interrompo con mio malgrado questa bellissima musica, ma per arrivare all'ultima parte di questa focosa puntata, direi, piena di ragionamenti, riflessioni, contenuti e domande, soprattutto, come si diceva. E lo faccio mandandovi subito, così senza spiegarvi nulla, la siglettina. I nostri esperti interessati a dialogare con le piante. Pianta storia. E registrarne la sensibilità. Pianta storia. Ed eccoci qui, quindi, che cosa si farà mai in questa ultima parte di puntata? Ebbene, come sapete ormai molte di voi all'ascolto, mi piace molto, devo dire, interpellare le mie ospiti e i miei ospiti in regia quando vengono qui per la prima volta con una bellissima pianta storia. Ricordo brevemente, per chi non avesse mai avuto la grande fortuna di ascoltare una pianta storia finora, la pianta storia è semplicemente una storia della vita personale che riguarda una o più piante e che hanno avuto un ruolo appunto in questa vicenda, in questa storia. Allora, questi due miei ospiti in regia possono scegliere chi va per primo a questo punto. Lorenzo. Vai, andata. Allora, la mia pianta storia riguarda le orchidee. Che belle. Già, io ho avuto e tuttora in realtà ho una fittonata per le orchidee. Io le odio. Esatto. Ho detto quel che ho detto. No, piccola parentesi, sono delle piante orribili, fanno dei fiori bellissimi che attraggono gli insetti impollinatori e non producono nettare, quindi sono le uniche piante che sfruttano gli impollinatori senza ricompensarli. Andiamo pure avanti con Lorenzo e la sua passione per le pietronze. Io ho una relazione tossica con le orchidee. Che di fatto, va bene, è nata diversi anni fa e credo che abbia trovato il suo massimo momento quando mi sono trasferito in Belgio, perché io avevo 6 piante di orchidea in casa e me le sono puppate tutte nel trasloco per andare a Namur in macchina. E mi ricordo che è stato un trasloco abbastanza curioso, perché eravamo in due a muoverci, eravamo io e un altro mio amico che si chiama Giuseppe. E nel fare questo simpatico trasloco abbiamo avuto la brillante idea di dire: vabbè, visto che tu vai a Como, io vado in Belgio, sei di certo, strada. Certo, no, tiro di sputo, facciamo che facciamo il trasloco insieme. E quindi abbiamo fatto questa macchinata delirante dove avevamo tutto caricato pienissimo con 2 biciclette, non si riusciva a vedere niente dietro, ma lui aveva in collo le mie 6 orchidee. No, che meraviglia! Legate tra di loro, ovviamente, perché non c'era cazzi, queste dovevano arrivare in Belgio. Ovviamente poi lui è sceso a Como, la cosa è diventata un pochino più semplice, ma io poi comunque mi sono puppato tutta la scaricatura delle orchidee fino in casa, le ho messe lì, mi ricordo erano anche abbastanza, secondo me abbastanza contente, però ecco, forse quel momento io ho detto: forse è il caso di smettere di comprare orchidee. Mi sono detto che la mia vita non è che si parli benissimo con i traslochi di 10 piante. Però sì, è stato comunque simpatico, perché in realtà le avevo già da prima e non lo so, era un po' anche come portarsi dietro una parte di casa, no? Davvero, quindi l'ho fatto volentieri, ma è stato una bella rottura di palle. Specialmente per perché loro, nelle curve, quando, non so se avete presente, ma le orchidee, perlomeno io utilizzo il bark, quello, no? la corteccia grossa, e quindi tutte le volte che giri un po' veloce casca in terra la corteccia, quando casca l'orchidea è finita perché tutta la pianta esce e vanno in terra tutte quante le cortecce, quindi un parto, ogni curva un po' brillante con l'orchidea che era tra le gambe di Giuseppe che poi cascava a terra, un delirio, però no, diciamo, l'ho fatto volentieri. Ma Giuseppe cascava in terra pure lui? No, per fortuna lui l'ho legato. Ho legato lui, che a sua volta era legato alle orchidee. Cioè, era una specie catena. Di Ulisse e le sirene, questo trasloco. Esatto. Era una catena. Bellissimo. Sì, totale. Oddio. come Che bella storia, bellissima. E ti devo dire che non è la prima storia di viaggi di piante che mi hanno portato qui alla Pianta Storia su Nervature. Ce ne stai tanti altri di sì, traslochi o viaggi, spesso viaggi forse. Bello, bello. Bello. Tante sempre orchidee, bello. Anche tante orchidee, qualcuno direbbe. Oddio, no. Con queste piante che cascano in macchina, però l'ho fatto. Quando usciremo da questa stanza io non so se me la sentirò di rivolgergli di nuovo la parola. Questo umorismo veramente pessimo. Però ce la rivolge a noi questi ultimi 5-10 minuti. No, fra l'altro anch'io volevo raccontare la storia di un viaggio di piante. In realtà, perché dopo averci pensato un po', cioè visto che faccio la biologa vegetale, in realtà di storie di piante ne ho abbastanza. Però le storie delle mie piante in laboratorio purtroppo si concludono generalmente con capitozzature, estrazioni di DNA, tagli, spiaccicamenti e affini. Quindi in realtà ho deciso di raccontarvi la storia di una delle mie piante personali, mettiamola così. Anche i miei genitori sanno che io ho un po' questa fissa per le piante, che mi piacciono tantissimo, e sono una di quelle persone che quando va in giro va sempre in giro con un paio di forbici con lo scopo di prendere campioni. Esatto, fare e infilare piante in acqua sperando che germinino a un certo punto. E niente, quindi a un certo punto mio padre aveva deciso di fare un viaggio in Africa e io spero che non ci stiano ascoltando gli amici della postale. Però che salutiamo. Esatto, salutiamoli. Non ci troveranno mai. Va a fare questo viaggio in Africa e sulla cima di una montagna trova in realtà delle piante grassi. Quindi già cosa rara, piante grasse in montagna, che lo fanno pensare alla sua figlia prediletta, nonché unica, nonché me. Quindi cosa decide di fare? Prende queste piante e decide di portarmele in Italia. Solamente che questa cosa non si può fare. Per più di un motivo. Per più di un motivo, e soprattutto mi verrebbe da dire per più di un giustissimo motivo. Quindi, amici, non fate questa cosa a casa. Non si fa, no, il male. Sta di fatto che riempie una delle sue scarpe da trekking di terra e ci infila la pianta, cioè, è Wally in questione, sì. Ma quella a quel punto era diventata la pianta del piede? No, vabbè. Io attonita, io basita. O forse si farebbe prima a dire io morta. Comunque, lo chiedevo. Niente, alla fine sta di fatto che quindi impacchetta tutta questa cosa illegale all'interno della sua valigia, cioè una scarpa piena di terra del picco montano africano con dentro la pianta grassa, e torna a casa e fra l'altro mi si para davanti questa scena, tipo, non so se avete presente i gatti quando riportano il topo morto, oppure l'uccellino, cioè tipo lui è tutto fiero, apre questa valigia e mi fa guarda cosa ti ho portato, inizia a svuotare questo scarpone e io dico ma stai bene? E poi vedo che c'è questa piantina che fra l'altro abbiamo messo in terrazza, è diventata enorme, ha fatto un fiore stranissimo e bellissimo. Sì, e niente, poi ha fatto un migliaio di figlioline, questo gli amici della postale non devono saperlo. Soprattutto gli amici della forestale, direi. E niente, adesso avrò sperito mio padre dietro le sbarre, però questa era la mia pianta storia. No, comunque bellissima, veramente bellissima, tutto lo scarpone pieno di terra dentro la valigia, incredibile. Volo. Bellissimo. E così in chiusura di puntata e in chiusura di canzone rientriamo giusto per i saluti. Veramente grazie Elisa e Lorenzo per essermi prestate a questa follia. Ma grazie a te, grazie a voi per aver ascoltato questo pippone incredibile. Sì, esatto. Cioè, ci siamo veramente sbizzarriti all'inizio quando Adu mi ha chiesto di partecipare a questa cosa. Io avevo una paura folle e poi in realtà vi ho attaccato una pezza veramente infinita. Boia, e sono molto contenta di aver trovato questa valvola di sfogo. Speriamo. Ma sì, cioè non si taglia niente, si tagliano solo i capelli qui, e le piante. Come? Per fare talei e campioni. Esatto, no, ecco. Dei campioni. Esatto. Quindi davvero grazie tanto, e magari i microfoni sono sempre aperti e chissà che magari altre collaborazioni potrebbero nascere. Certo. Voi ascoltatrici da casa vi saluto, ci risentiamo con Nervature lunedì prossimo alle 19. Mi raccomando, come sempre, non esitate a scriverci sul pad diretta@wombat.vado.li e a diffondere il verbo di Radio Wombat, l'unica radio libera di Firenze. Vi mandiamo quindi un ultimo pezzo di saluto, di addio e di buona serata. Continuate a rimanere connesse e connessi sul palinsesto wombattiano. Kumazukapo, jinukusipo kupo, me e do la malota, e wezo e sobon midi, nous donne mena nyopo, to vi weno blotodo, ali lele mi bepo, to vi geno debi wi, simbo dawe dagbele, to vi geno babi wi, moto vekwe vekwele, to vi geno hobi. Bon midi, we di joko, we di da, better geno bobi qui, nyande akoba jekona, kame jenwe nyalona yi, me we kanyi me wole kata, e haye we jobe koro, nyala wa yi motoga, eke jenwe dombo wado, de manye we nyalonyi, me fe menu we nyakoba, better vi adi bedo. Yeah.